Radio Grad, la radio libera e resistente. Buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Oggi è lunedì 30 settembre, anche il mese dei settembre 2024 se ne sta andando. Io sono Fabio Marcelli, co-presidente del Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia CRED, e questa è la trasmissione dal titolo Mondo in Transizione, che ho ripreso a registrare lunedì scorso e che spero di poter continuare a registrare con una certa costanza ogni settimana. Siamo, come evidente, sempre più immersi nella guerra mondiale a pezzi, i cui pezzi cominciano ad accennare a saldarsi in modo sempre più evidente. Ogni giorno c'è un fatto nuovo sullo sdrucciolevole sentiero dell'escalation, che riguarda per ora in modo principale il Medio Oriente e l'Ucraina. Per quanto riguarda il Medio Oriente, il fatto nuovo di ieri è l'attacco israeliano allo Yemen. Ieri i jet con la stella di Davide, leggo l'articolo del Fatto di oggi, hanno colpito 120 obiettivi tra il sud del Libano, la valle della Bekaa e Sidone, uccidendo 51 persone, secondo il Ministero della Sanità libanese, che non distingue tra civili e combattenti. Al tempo stesso, sempre ieri, nello Yemen, l'aviazione dello Stato ebraico, che continua a essere definito tale, anche se sono sempre di più gli ebrei che non si riconoscono nelle politiche razziste, suprematiste e genocide del governo fascista di Netanyahu, ha preso di mira alcune infrastrutture energetiche controllate dagli Houthi, che da mesi mettono a rischio la navigazione nel Mar Rosso a sostegno ad Hamas. Una dozzina di caccia israeliani si sono spinti a 1800 chilometri al suolo nazionale e hanno bombardato impianti di stoccaggio di petrolio e due centrali elettriche nelle città portuali di Hodeida e Ras Issa, 4 le vittime e 33 i feriti. Il messaggio è chiaro: per noi nessun posto è lontano, ha dichiarato il ministro della difesa di Tel Aviv, Yoav Gallant. E Israele stavolta ha notificato il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, prima dell'attacco, per alcuni addirittura coordinato. Quindi Israele sempre più scatenata verso la terza guerra mondiale. D'altronde sono in molti ad affermare, anche commentatori israeliani indipendenti di un certo rilievo, come il direttore o ex direttore di Haaretz Gideon Levy, che Netanyahu sta chiaramente tentando la carta del coinvolgimento diretto dell'Iran, in modo tale da scatenare una guerra mondiale che gli consenta di mantenere il suo posto alla guida di Israele e evitare così possibili infortuni giudiziari o politici. Ovviamente non c'è solo Netanyahu, c'è uno Stato che ha sempre costruito sull'espansionismo sionista e sulla negazione totale dei diritti dei palestinesi fino all'apartheid e oggi da ormai quasi un anno, dal 7 ottobre dell'anno scorso fino al genocidio conclamato e che oggi appunto allarga la sua politica aggressiva ad altri stati come il Libano e ora anche lo Yemen, ma probabilmente in un futuro non troppo lontano nel mirino del governo israeliano c'è anche la Siria e c'è anche l'Iraq. Giova ribadire rispetto a questa situazione che si è venuta determinando che sono enormi e decisive le responsabilità dell'Occidente, in particolare degli Stati Uniti, ma anche di altri stati come ad esempio la Germania e l'Italia, tanto per citare ancora una volta i primi tre fornitori di armamenti agli israeliani. D'altronde è chiaro come l'attacco a Beirut, nel corso del quale è stato ucciso il leader storico di Hezbollah, Nasrallah, insieme a molte altre persone, è stato condotto utilizzando le bombe da 900 chilogrammi ad alto potenziale fornite dagli Stati Uniti, che apparentemente, almeno così dicono, non sarebbero più utilizzate a Gaza, dove utilizzano armi magari un po' meno pesanti, ma altrettanto micidiali. Al tempo stesso si registra un'irritazione dei vertici statunitensi rispetto a questo attacco israeliano in Libano, che sarebbe stato lanciato senza avvisarle in precedenza. Del resto ormai Netanyahu fa quello che vuole e non gliene può fregare di meno degli Stati Uniti, che tanto sono sempre compiacenti e solidali con lui e continuano a rifornirlo di armamenti micidiali. Del resto Netanyahu ha voluto lanciare questo attacco, questi attacchi, compresi quelli di ieri, in un momento particolarmente delicato della politica mondiale, e cioè alla vigilia delle elezioni statunitensi, rispetto alle quali appunto si annuncia uno scontro dagli esiti ancora del tutto incerti fra Trump e Kamala Harris. Scegliere uno dei due è un po' come scegliere la peste o il colera. Peraltro la Harris assomiglia sempre di più a Trump, come dimostrato dai suoi annunci in materia di lotta all'immigrazione clandestina, per la quale ha proposto recentemente la ricetta dell'arresto dei cosiddetti clandestini. Quindi non c'è poi in fondo una grossa differenza fra i due, forse Trump è un attimino più moderato rispetto all'Ucraina, o almeno così sembra, mentre è più scatenato nei confronti dell'Iran e della situazione medio orientale, ma dobbiamo capire che si tratta in fondo di sfumature assolutamente superficiali e che hanno rilievo solo sul piano comunicativo, visto che poi la politica estera degli Stati Uniti non la decidono né Trump né Kamala Harris, ma la decidono i centri di potere del cosiddetto Stato profondo, che sono ben attrezzati per sopravvivere a qualsiasi cambiamento di amministrazione, almeno fino a quando questo cambiamento sarà confinato alla falsa alternanza o alla mera alternanza di facciata tra repubblicani e democratici. Quindi questa degli Stati Uniti si conferma una democrazia fittizia, che pure continua ad essere acclamata dalla stampa e dai partiti dell'intero Occidente, Italia compresa, come un modello da seguire. Del resto che la democrazia in tutto l'Occidente sia in forte crisi, lo possiamo capire analizzando le più recenti vicende europee. Dalla Francia, dove il voto maggioritario del popolo a favore della sinistra è stato bellamente ignorato dal presidente Macron, che ha proposto un governo chiaramente di destra, come spiega Sandro De Toni, un ottimo intervento che ha pubblicato su Sinistra Sindacale ieri, un governo assolutamente di destra che occhieggia tra l'altro anche al fronte nazionale della Marine Le Pen, che pur non partecipando in modo formale a questo governo può contare su numerosi ministri di destra del Rassemblement del Popolo République, degli ex gollisti per intenderci, che oggi rappresentano uno spezzone della destra fra virgolette meno eversiva di quanto lo sia quello dalle penne, sono stati appunto prescelti da Macron come la vera e propria spina dorsale di un governo che nasce contro la sinistra, contro il Fronte Popolare, contro la France Insoumise e contro Mélenchon, che pure avevano vinto le recenti elezioni. D'altra parte l'Europa nel suo complesso è nell'assoluto marasma, lo possiamo vedere anche dalle vicende tedesche con le recenti elezioni in Brandeburgo, che hanno visto la vittoria per un verso dell'Alternative für Deutschland, questo raggruppamento che si ispira chiaramente al nazismo, e dall'altro della nuova forza di sinistra popolare di Sarah Wagenknecht, mentre il Partito Socialdemocratico ha mantenuto la maggioranza relativa con una differenza davvero risicata. E ancora più di recente, ieri ci sono state le elezioni in Austria, dove ha vinto una formazione come il Partito delle Libertà, cosiddetto Freiheitspartei Österreich, che è stato fondato molti anni fa dagli ufficiali delle SS, quindi non proprio un partito democratico, questo un partito chiaramente con radici neonaziste, che ha raccolto appunto il 28,9% delle preferenze e ha eletto 57 deputati al Parlamento austriaco. Un altro elemento evidente di queste elezioni è la sconfitta dei Verdi. D'altra parte i Verdi sono stati sconfitti anche in Germania ed è questa una conseguenza inevitabile del loro vergognoso appiattimento sulle posizioni guerra von Leyen nel tempo del governo tedesco. I Verdi, con la ministra degli esteri Baerbock ed altri, sono i più grandi fautori della guerra contro la Russia. A proposito di guerra contro la Russia, un sintomo del pericoloso irrigidimento autoritario che stanno vivendo le nostre società è fornito dall'annuncio che il COPASIR, l'organismo che dovrebbe appunto vigilare sulla sicurezza nazionale, sta indagando sui manifesti che sono stati affissi a Roma e penso anche in altre città con la scritta "La Russia non è nostro nemico". Un altro appunto elemento che ci indica il pericoloso maccartismo cui stanno sempre più tendendo le società occidentali ed europee in particolare. Altro indizio in questo senso, come è noto, è il divieto della manifestazione contro il genocidio del popolo palestinese, convocata per sabato prossimo 5 ottobre dall'Associazione dei Giovani Palestinesi. Un divieto assolutamente immotivato e ingiustificabile che, come richiesto dal Centro di Ricerca ed Elaborazione per Democrazia, credo, dovrebbe essere revocato. Ci auguriamo pertanto che sabato prossimo si possa manifestare pacificamente a Roma contro il genocidio, per i diritti del popolo palestinese e per la pace, che è indissociabile dall'autodeterminazione della Palestina. Per oggi è tutto, buona giornata a tutte e a tutti. Radio Grad, la radio libera e resistente.